brigido. Ui, biondo. Dal culo pallido. E vai a andare lì. Coccatosi. No, son qua, Rosacco Riccardo. Ha più onore? Ehi, già ce li ho, le giri, ma ce li ho. Ah, ma lascia perdere, lascia perdere. La siamo conciati, e adesso mercoledì devo andare a fare quella visita, vediamo un po'. E andiamo a imbuttire i bacilli. Che vuoi che ti dica, vedi chi sono imbuttito? Oh, io. Ma ci stanno volando il tempo. Ah, boh, non lo so. Questa cacciata del Parisiano volendo. Vabbè, devo fare l'aria, tanto siamo usati la macchina, canuti. Ah, cappa. Ma come si può dire riposo domani? Voglio dire riposo. Cazzo, è morto domani mattina, riposo. Cappa. Stamattina non è entrata anima viva. Sto preparando un po' di pasta. Come mi sai un po' fino alle 9:30. Cosa stai preparando? Un po' di pasta? Sì, un po' di pasta di Giulio. Pancetta ce l'ho, con di tavolare per sé, ma lo stesso. Poi mi ci corico un po' fino alle 9:30. Dopo mi metto la divisa alle 16 e in partenza attorno. Ah, cazzo. Che tempo, cazzo. Yeah. Mamma mia. E cosa vuoi fare, Manuè? Urda, questo è esaurendo il buco, cosa vuoi fare? Esaurito il Caruso, via. Poi è un posto di merda che quando entri con la macchina, cazzo, è tutto polverone, cazzo, va giù la macchina, va giù bietà, mi dico. Se sono posti così, per forza ci sporca. Ma se non si vede mai quei stecchetti, da Rubio a Rubio, figurati, lo so la roba a fare, tanto dura un'ora e le torna a capo. E infatti, in chi vi è un casotto? Ma ti hanno spostato da dove eri? Ma no, sempre lì sono. Sempre al campo reale, adesso inizieranno i campeggi da fare. Ha detto, sì, se vuoi che vado anche quest'anno mi dai il torto, se no mi cambierò di io. Mandate agli altri, prendete il personale. E infatti, non ti conviene, no? Se no da poi ti tocca pure viaggiare, un casino. No, no, viaggiare, a parte che mi danno la benzina per andare là. Però il bello è che ti danno sempre quella cifra lì, hai capito? Ma non mi conviene, a me mi danno 8 euro, qui ti alloggio, l'alloggio c'è, il vitto ti devono dare. Cazzo, da gentesimo vanno un passo a due, 300 euro di pesa, cagli. Cazzo, sto svuotando il garage via Prati, che lo devo lasciare lì, perché stanno vendendo la casa là, e quindi il garage lo devo lasciare, un casino, gatto, belli bacchi, bacchettini. Dove te la metti su quella roba? No, la maggior parte la metto in soffitto, ma le scatole che ho, e poi adesso devo vedere, la moto pure, non so la roba, la moto buru. Infatti. È un casotto, ho cercato garage in quale zona, non ce n'è cazzo. Garage, un magazzino, dai. E il tanto di poter appoggiare la roba lì. E non ce n'è. In zona dove dico io non ce n'è. Non ce n'è proprio. E un casotto, Cazzo, devo un esempio, tanto guinness, ma non fa un cazzo, pago tanto guinness di garage, un buco, un garage, un magazzino. Fatto, fa cazzo. Tuia, e beh, pronto, Sì, guarda, un po' la cottura è al dente, perché io la mangio al dente. Ho fatto un bel soffritto e via andare. E anche io ci si mangia. Caragana. c'è qualcuno? Ho l'attenzione al canale 10. Capito già. Chi è? Non sono io, stavo parlando al centro stazionale, esce, vedi? È un naggio. Ma quella tema lì non c'ha né QRM né stazionale, lo so. Oh, non è bigliaco, è pirita. È sorda, Lo so, lo so. L'ho avuta prima di te io, Non lo so. Stazionale non si può viare in macco. Questo qui adesso mi vedi, adesso è salito, come sono andato su lì c'è salito, è stazionale. Ma quanto sei a due adesso? Sì, uno e sì, aspetta che provo a regolare. Allora, è stazionale, è più facile, dai, è più salgono già, capito? Non lo so. Ho detto, le stazionarie, più vatti gli dai e più tendono a salire se c'hai stazionarie sull'antenna. E a vanonnaggio. Anche se andavi 100 watt non salivo. Ma neanche se li do watt, sto scendendo con 10 watt, guarda. Vabbè. Purtroppo sono stato sfigato, perché un anno e mezzo l'abbiamo piazzata con l'antenna. Tutto lungo, lo sai, pali, tutto tiranti, tutto roba. Vabbè, magari se non si è allentata la carica, perché è impossibile che vada un stazionario, hai capito? Vabbè, tu l'hai controllato, se non la controlliamo, non si sta sempre così. E questa la radio, bene va? Sì, è radio. Ora, questo è il coso, il Cobra. E se me... E gli ho adattato quel microfono, l'MP3, ho capito? L'MP3, che scarne? Scappa, ora. Mi sa che è troppo basso, no, di radio, l'aumento. Ora, 1, 2, 3, ora, com'è adesso? È proprio... Ma l'ho aumentato. Ci ha messo la batteria a scarica. Probabilmente. Non ha aumentato pure, uguale. Comunque esce meglio di prima, perché prima la radio era bassa. Dove? E adesso com'è? No, dico, quando ce l'avevo io quel Cobra, la radio risultava bassa. adesso questa è la radio sua. Microfono normale, guarda, 1, 2, 3, ora. Va bene, un microfono normale. Che ho aperto appena la LC qua, capito già? No, l'ho già aperta io, un pochino. Ah, io gliel'ho messa a metà. Ora, così va bene, dai, lo lascio così. Non è, non sai da trattare, o usi uno, o usi l'altro, è un casino. Tu mica non hai dubbi, non sai mai cosa usare. Poi, adesso che ho questi problemi non posso usare un cacchio, più che questa qua che è a pochi watt. Perché basta una del radio, l'ultima che mi ha detto i media mi tratti già prima. Non è bella la candela per non vedere radio. Dobbiamo averne una e buona, tanto non c'è più nessuno già. Cosa te ne fai? Siamo noi fissati. A noi ci piace prendere l'avanti che ti riempia gli occhi. E lo so, guarda, è bello perché c'è tutto acceso, ma... La stazione completa è bella, dai, no, a me piace. Però, in effetti, definitiva, hai ragione tu, perché tanto c'è la stessa frequenza. Cosa ne va di 50, tutti precisi? È la stessa cosa che tu compri due cose uguali. Infatti è questo, Vincenzo. Te ne tiri una che fa tutto, boh, basta, già di una fuga. Bah. Questa esce bene, è vero, questo Galaxy. Va benissimo. Stavo dicendo, è inutile che ne hai un bel. A parte che c'è un consumo di tensione in più. Invece ne utilizzi uno e boh, già di una fuga. Certo. Ma vabbè, io le accendo tutte e poi a un certo punto quando devo modulare le spengo, le altre modulo con una. Che se io le accendo innesca, capito? Quindi non le posso accendere perché mi fa rientro nelle altre radio. Te le segno io il trucco, la metti in un altro canale. Tu le metti per dire sul canale 40, le altre tu sei su 10 e non rientro. Sì, già lo so. La luna. Io faccio così, però molte volte le spengo direttamente, una volta che hanno già scaldato le spengo e ne uso una. Io le accendo ogni tanto, non è che non accendo. Vabbè, questa è la fermata, un bel po', capito? Quindi ogni tanto, se no si rovinano. Se no, sì, quando non vedi il tempo senza accenderlo, il frequenzimetro si accendevano solo tre cifre, basta. Poi l'ho fatto scaldare, ma... Perché voi stavano scaricando i condensatori, capito? Perché bisogna usarle, per tenere i carichi bisogna usarle. Se no è un casino. A un secondo. Egna già, purtroppo è uscì. Ma domani fa, se ce la fai, dai, passa, che così la controlliamo, sto cazzo da cena, che solo impara lui. Ma se ce la faccio in mattinata, ma no presto, No, oh, va bene anche a mezzogiorno, non c'è problema, tanto non sarà un lavoro anche le 11:30, dai. Egna, va bene. Tutto c'hai? Tutto che cosa? La scala. Le zanze, l'astro, le chiavi. C'è la scala. Può servire. L'avvitatore magari porta. Però può servire, ma non lo so, un cacciavite a stella, è proprio l'avvitatore, dai, lo so. La scala ce l'ho. Non penso che serva altro. Mi auguro che lo serva altro. Se serve saldatore per fare il PL lo puoi fare anche su perché c'è una prolunga, ma noi mentre la facciamo la prolunga e lo facciamo lì. C'è la borsa io, c'è tutto, dai. Vabbè, però mi raccomando, basta perché sennò se questa antenna mi gira male e male. Ho un'ora e mezzo che l'ho piazzata a casa di già fasciata. Male per fasciata, magari si è mollata la carica e ti sta segnando stazionario per quello. A meno che non c'è il filo fregato da qualche parte, ma non credo. No, non hai visto i fili come li ho messi, tutti legati ai tiranti. Non possono sfregare da nessuna parte. Dove poteva sfregare gli ho messo la pompa, un pezzo di pompa, di modo che non toccasse il muretto. Ah, io l'ho rubato, io gli avevo messo il filo quello grigio, capito? il discasone. Io ho messo tutto il video, io ce l'ho tutto il video, quello l'accaccetto, cioè, quello che c'ha la casa doppia, che ha la protezione della casa. E anche io ho messo l'accaccetto. Adesso il problema è trovare i piedi, perché non si trovano più piedi buoni a Sassa. Sarei comparato a bruciare un infiele, perché non ha vita, non carino, cioè li ho tutti buttati io lì, c'è questo. Allora io ho provato a fare una cosa, cioè con il piede in vinti, no? Gli ho tolto la ghiera e l'ho messo in piede di Fusaro. Ho saltato tutto convinto di poterla fare tutto, che se non ci arriva, non arriva la filettatura. E se la butti in dura c'è Biel. Infatti gliel'ho detto a Massa, metto forza, ma ne cosa ti porta? Avevo già fatto tutti gli spezzoni, non te lo ricordo, abbiamo fatto tutti gli spezzoni, non ce n'è uno che ha vita, uno che uno è, non ha vita nessuno. Ah, io c'ho quelli buoni, quelli in macchinetta gialla. Ma dove li hai presi? Ce li avevo da un paio quelli lì. Ne avevo un 5 o 6, li ho tutti utilizzati a fare gli spezzoni qua. Anche io ne avevo, però li ho tutti utilizzati, capito? Dovrei montare gli spezzoni, quelli con le 58 e metterlo nella caccetta. E allora sì che va bene, capito? Il piede è importante, E lo vedo che è importante. Se ti gira tutto, quando vai a saldarlo si scioglie, ragazzi, ti gira pure la parte bianca. Ok, perché ci vogliono quei saldatori particolari per saldarli, non saldatori, quelli che regolano la tensione, capito? Lo so, però, gli altri vanno bene, cazzo, il saldatore normale vanno bene, quelli no. A fate rimandezza, a carità. Oh yeah. Se ho preso due spinuti da chitarra a fare uno spezzo a un amico, come te l'ha saltato, sei sciuccio. Perché la chitarra lì? Allora sono andato da coso e li ho presi lì, come si chiama, quelle che ci apre da Nieda, vicino a Cesaraccio, dietro a Cesaraccio. Ah, coso, se esiste ancora quello lì, non lo ricordo se esiste ancora, come si chiamava, non me lo ricordo più, c'era Fusaro, c'era GBC e quello lì, che non mi ricordo più come si chiama. E quello lavorava da Melchioni prima, quel ragazzo, li ho presi da lui. Ah, da quello Carugli fu. Infatti me l'ha fatto pagare 20 euro due di queste cose. Quelli a Jack sono, no? Quelli a Jack grosso. Comunque la quelli delle cuffie, mo, no dai. Sì, ho capito. Non è vabbè. Possiamo andare in quelli strumenti che c'è a Prendanita dove c'è. Presente dove c'è bandiera gialla sotto, c'è un negozio che vende roba per chitarre, c'è roba così. Ah, ho capito. Le casse, vede, stereo, tutte queste cose qua, tutta roba per discoteca. Quello lì è ammassata di roba, a scelta proprio. E tu che microfono stai usando la tavola adesso? Io c'ho il coso, c'ho, come si chiama? LZG MP4. Ma non mi piacciono i microfoni già, boh. No, mi piace lo ZG. Perché male esce? No, ecco, sono brutti, boh, no. Ma l'estetica, se dice. Non mi piacciono per quello, cioè non è estetica brutta. Sì, vabbè. Sembrano più giocattoli, dai. Vabbè, però se tu li lavori, quei microfoni escono bene. Invece io l'ho modificato tutto. So, adesso c'è invece la batteria scarica, capito? Quale modificato? ZG? Però va riportato un altro travaglio, anche ne so che tu di gamba batteria, riporto l'alimentazione a 9 volts. Quello già sarebbe una cosa buona. Però bisogna saperlo fare, anche se no bruci tutto. Sì, sto chiamando e vuoi farlo, va. Io lo faccio, prendo il trasformatore di quelli a 9 volts, capito? E glielo metto. Con lo spinotto dietro e faccio il foro e gli metto il jack. Vabbè. usare anche un trasformatore a 9 volte e fargli un buchetto dietro, fargli passare il filo e via. Ah, no, me lo spinotto, voi già sai quello ufficio, se non, non deve più usare lo prende lo stacco, capito? Quello già è vero. C'è qualcuno che l'ha fatto anche per il Kevud, se l'ha fatto. Il Kevud c'era di origine l'alimentazione, da, la prende dalla radio direttamente. Ehi, gli avevano fatto gli attacchi, no? Per prendere l'alimentazione dalla radio. Ho capito. C'è forte, c'è la Alessio, cavolo, c'è un bel forte. Però devi lasciare con la batteria collegata, devi mettere le due batterie e fare solo batterie da 1,5, 3 volts. Ah, prende l'alimentazione dalla Parigi. Ho capito, e che vuole prendere direttamente da lì? L'unica è, perché vabbè che consuma poche batterie, io ce l'avevo un paio di anni prima di cambiare. Ma... io ho una capuccia che ho recuperato da uno dei quei microfoni che usavo sul karaoke, però è da 600 ohm, non va bene. Quella che ti ho dato io, quella che ti ha dato? No, quella no, già, è troppo grande, non ci sta, bisogna fare una modifica. Ma ne è una da 600 ohm di capsula, di ceramica. Sì, io ne ho microfoni al karaoke, ne ho due, fermo. Vorrei vedere che capsula c'ha, ma va di 10 mani, mi basta. È una di quelle capsule che monta il microfono della Midland, uguale a quella è la grandezza. Allora poi sono quelle dei telefoni Sirio. Ho capito. Io siccome non ne avevo trovato telefoni Sirio, sono andato da Portobello, c'erano 5 euro l'uno, li stavo prendendo, ma ho pigliato un telefono e ne giocavo dalla capsula, ma pigliavo la capsula e ho pagato 5 euro. Quali sono quei telefoni della Sirio? Li conosco io, quelli bianchi e celesti. Quelli bianchi? Bianchi, boh. Io ne ho uno, però è bianco e celeste. No, sono quelli bianchi della Sirio che dava la Sirio, allora. Non ho mai avuto di quelli, no. Sì, li stavano, ne avevano un montone, li stavano dando 5 euro l'uno. E me l'ho comprato uno, quello più nuovo, ne ho preso la capsula. Poi gli ho messo un'altra capsula nel telefono e ci potevo usare lo stesso. E mi sono detto, dovrò provare con la capsula da 600 a ver se andava bene con le MB4, se spingeva di più. Di che cosa era questa qua? Era di un microfono di quelli che usano a karaoke, di quel microfono normale, quelli che usano per cantare. E a karaoke c'è già anche lo Shure, io per dire ne avevo regalato lo Shure per il compleanno, per cantare. Ma tu devi sentire questo microfono come uscivo a casa. Sembrava una cantante. E poi volevo montare quella capsula da 600 a provare. Giusto a provare a vedere come usciva a me. E monta quello trovi. Lo proviamo com'è. Quindi sono alimentate quelle capsule, non so a quanto vanno alimentate quelle capsule di lingua. La capsula alimentata non penso, perché cosa c'hanno? Amplificato le lenti. C'hanno il circuito, certo. Non lo so come siano fatte, però lo Shure esce un bel bene. Se caricavo la capsula di quello Shure, il microfono andava benissimo. Una scheda dentro, perché io l'ho aperto, capito? Questo microfono dato non serviva. E ho recuperato la capsula. E c'è il circuito dentro, capito? Della preamplificazione. Ho capito. Solitamente la karaoke amplificatore se la prende, è già amplificato il karaoke. E il microfono non so che amplificatore può avere. È già amplificato, tu come attacchi il microfono, cioè è l'attacco amplificatore. Ho capito, ma c'è anche una scheda dentro quel microfono. Se tu lo apri c'è una scheda. Non voglio insistere perché non lo so, però provo a aprire il mio e poi ti faccio sapere. Poi ci vuole poco, si svita. Ma c'è il circuito dentro, l'ho aperto io. Il mio si svita la parte di sopra e c'è la capsula subito. Ma deve essere grande quella che c'è, non ci va bene. Ma è di quelle piccole. Questo era un microfono, aspetta che marca è, una Dynamic Aiva. Un Aiva, sì, lo conosco. del segnale anche. Vado a vedere come si è andato. Ah già, vabbè, sei 9.25 Radio 5. È un po' basso, vai, per essere vicino a casa tua. Altrimenti non sarei scettico di vero, invece se tolgo il Maxi Box senza l'alternanza delle stazionali. No, va bene, è pulita la radio, capito. Andare, no, anche questo va bene, dai, come radio. Io sto usando l'MC adesso. Guarda adesso, c'è pulita. K. Ieri mi faceva l'alternanza, le stazionali mi facevano l'alternanza. No, va bene già. E vabbè, ma non si può usare intanto, perché poi se servono ancora di più, che non lo posso usare in radio. Beh, ma se c'è l'accordatore e te l'accordi non succede niente, l'importante è che sia accordata l'antenna. No, l'antenna l'accordatore non te l'accorda, non si fa scendere il stazionale in radio, ma l'antenna rimango. No, io c'ho l'accordatore qua, capito. Ma lo sto utilizzando, perché stazionaria non ne ho, ma se dovrei avere stazionaria attacco l'accordatore e me ne porto giù. Sì, ma quando sono troppo alto non te ne porta giù più distanza, capito? No, quello che ho io non ne ha di quei problemi l'accordatore. Anche se vedrai a 3 li butto a 0 io, a 1 e 1 li posso fare di ridotto. Vabbè. Cosa c'hai tu? Quello che c'aveva la tanto? C'ho l'accordatore della FMG. Quello da incrociati che non piace a me. Lo so, però a me non vado mai problemi, ti posso dire che va bene questi accordatori. A me mi piacciono alcuni strumenti separati, basta metto da una parte e rock metto dall'altra. Di modo che tu, io addirittura ne avevo messo uno della mia, perché non è grande, c'era accordatore, rosmetro, modulometro, tutto quanto, quello era bene. Ma a me non mi causa nessun problema, perché c'è la scala dei watt. È la scala della stazionaria, quindi non è un problema. E io lo so, io ho due addirittura, ho provato di c'è due rosmetri, perché la prima cosa che ho pensato è che fosse il rosmetri malato. Ho provato l'altro, mi dava le stesse stazionarie che mi dà con questo, con quello piccolo che ho usato per la macchina tua, te lo ricordo. Poi ho provato con il rosmetro che c'ha il Galaxy, le stesse stazionali mi davano, è giusto, quello che ha il Galaxy è giusto. Poi ho provato quello dei rossi, uguale con lo stesso, quindi nel più 2 fa 4. Nel rosmetro c'ho l'SX400 dalla Diamond. Sei agli accordature. Uno è accordatore, l'FMG, e più c'ho il rosmetro, l'SX400, che fa che rosmetro, wattmetro e tutto, capito? Ah, e io c'ho quello per la macchina, quello piccolo, ma l'ho comprato da Cusano. Ho comprato per la macchina, però non togliere sempre quello della stazione, devi fare prima con casino, staccare il filo della luce, eccetera, eccetera. Ho preso e ho comprato uno per la macchina, per misurare stazionare in macchina, no? E quello lì è preciso, è piccolino ma è preciso. Però anche io ho già quello lì, uguale. Quando la sera che marca è, no? Non me ne ammetto. Della Brimi è. No, è già Jimmy. No, quello che c'ho io piccolo è della Brimi. In continente lo chiamano Zettaggi, invece che Zettaggi, Zettaggi. Ma che guarda, questi strumenti della Zettaggi già, non mi affidano nessuna fiducia. Io invece ce l'avevo tanti anni, andava sempre bene il rosmetro, poi l'ho cambiato perché si è imballato, ma dopo un medio anno, me l'aveva venuto un attarino a seconda mano, me lo ricordo ancora, parata della IE, me lo ricordo ancora. Adesso costa 200 e passa euro quello della Zettaggi, tu la capi 1000. E quello costa un carino di soldi, ce l'avevo anche io, l'ho venduto quello. La KP1000 è bello, là come rosmetro, va bene. Solo che quando tu c'è le stazioni molto alte, non te la regola. Cioè la regola sì, ma non più di tanto. Ci dà quante batte tiene quello? 1000. E ha voglia. Vabbè, ci ha dato per 1000, ne tiene 500. No, c'è la scala, 100. Allora 10, 100 e 1000. No, lo so, ce l'avevo anche io, lui. ZG, si fa anche l'accordatore, lui. Ha tutto, è per quello l'ho preso, perché l'ha completo. poi la stazione è bello perché si illumina e tutto. Scusa un attimo, quanto l'hai pagato, Viscio? Più di 200 euro. Ma perché non ti hai preso un FMG con quei soldi, boh? Perché vabbè, l'hai incrociato in un piatto, è una questione proprio di estetica, capito? Mi piacciono due strumenti grandi. Ma io guarda, quella che incrociati è bello come quello, c'è un strumentino piccolino e va bene, è perfetto, no, c'ha tutta la scala, hai capito? Ma luce non è? Ah, ma buffone, c'ha la luce, allora c'ha l'interruttore della luce, puoi accendere la luce e spegnerla, puoi mettere la minima potenza, la massima potenza, poi c'ha il tuner, poi c'è l'accordatura di trasmissione, l'antenna, capito? C'è un casino di roba. C'è tutta la scala A, B, C, D, F, G, H, capito? E cosa più risponde la scala? Non è che bande devi andare, capito? Discorsi di cose, in base alle bande, discorsi commutatore, per accordare l'antenna. Se va in trasmissione, se no cosa... Ah, ecco, lo stavo capendo, sì sì, ho capito. In base alle bande sposti l'accordatore. E tu ti piatti un dipolo, per come dire, vuoi andare sui 40 metri, 10 metri, te l'accordi, capito? E poi io diceva che accordava anche un ciudo. Eh sì, è vero, questo accorda tutto già, non ha problema. Guarda che è fatto bene dentro, a tu mi vedi quanto è fatto proprio costruito bene. È più professionale, se sembra di dubbio. Ma che è USA questo qua, capito? È americano questo FMG. Gamma. Fra, ti lascio, ci sentiamo domani. Mi chiami tu, ti chiamo io. Vabbè, dai, ti faccio uno squillo al limite. Ok, già, dai, anche io chiudo che vado a fare roba al computer. Ci aggiorniamo, dai, saluto a tutti, anche agli ascoltoni, eventuali essere più VL. Per me è quel RT. Vabbè, già, ok. Ciao, ci sentiamo. Ciao, ciao.